Scendo le scale molto velocemente. Il tempo di orientarmi e mi fiondo davanti alla mappa. Alcune linee si assomigliano e mi confondo, ma scelgo la mia destinazione. Si aprono le porte. Scusi, per la metropolitana? C'è la scritta. Jungle Ground. By the power of Ra. Anche questa mattina ho fatto lo stesso sogno. Percorrevo la strada che porta fuori dalla città, verso la nebbia buia e fitta delle campagne, in un indefinito gelido mattino autunnale. Mi sentivo vuoto e leggero, davanti a me l'amico che non dimenticherò mai, con la sua andatura zoppicante lungo il vago luccicare delle rotaie e uno sguardo metallico che penetrava la fioca luce dell'alba. Poi un fischio acuto, subito assordito dall'aria densa. Il lento sventolio di una bandierina, il paesino di cui non posso più ricordare il nome. Volti a cui non posso restituire i lineamenti, vestivano secondo le diverse epoche da me attraversate e senza migliorarsi dall'incongruenza dei loro costumi. Sedevano gli uni accanto agli altri, salutandosi appena con un sorriso chiuso tra le labbra. Non appena i loro sospiri avevano intiepidito il legno, si partiva. Lenti, poi sempre più veloci, verso il sole e il calore crescente. Sulle rotaie non c'era nessun impedimento, nulla che facesse sobbalzare i petti o perdere l'equilibrio, la strada era tutta dritta e liscia come l'olio. Solo a quel punto vedevo le cime degli alberi e mi rendevo conto che il biancore che attraversavamo non era un denso banco di nebbia, ma una grande nuvola, e che noi stavamo volando verso il sole nascente. Right, mi sveglio, sempre accecato dalla sua luce immensa, scosso dalle risate argentine delle persone a bordo. Poi il mio sguardo si arrende alla luce reale del padiglione. Le risate che ho sentito sono quelle dei visitatori del museo. Riscoprirmi schiavo dell'immobilità e dei compassionevoli flash delle scolaresche è l'eterna amarezza a cui mi ha condannato il destino. Non so perché. Io non ho fatto che il mio dovere ogni giorno, dalla mattina alla sera, senza lamentarmi mai. È anche vero che 80 anni di carriera sono tanti e che a un certo punto è giusto lasciare il posto alle nuove generazioni. Non che la cosa mi abbia fatto piacere, anzi. Dopo che nel tuo tragitto hai imparato a conoscere ogni curva, ogni pietra, fa rabbia dover mollare tutto per lasciarlo a chi farà quelle curve senza nemmeno accorgersene e farà schizzare via ogni pietruzza dal suo cammino. È vero, io non avevo più quella forza, ma per la verità non l'avevo mai avuta. Sono i tempi che sono cambiati. Quando partii per il primo giro, fresco di vernice e di emozione, i miei 10 km orari incutevano paura. Quando passavo per le strade la gente si fermava ad ammirarmi, i cani abbaiavano, i cavalli nitrivano, passavo davanti alle carrozze con la fierezza di chi contiene la propria potenza, per nulla umiliare l'avversario. Erano i tempi in cui le donne portavano il bustino e i capelli raccolti sulla nuca. Salivano con un bambino per mano e la scorta di patate nell'altra. Poi le gonne e i capelli si accorciarono e il tempo seguì la moda. Lo stile di vita era cambiato. Nessuno poteva più permettersi di aspettare, nemmeno pochi minuti. Doveva andare dall'altra parte della città e doveva andarci di corsa e possibilmente trovarsi già lì per magia. Gli orologi conquistarono il mondo e sottomisero l'uomo. Tutti coloro che non tenevano il loro instancabile ritmo meccanico erano tagliati fuori. Io fui considerato troppo lento e messo a riposo. Ricordo la festa con cui salutarono il mio addio alle rotaie e l'arrivo dei nuovi, spettacolari modelli moderni. Loro furono tutto sommato meno fortunati di me. Io ci misi 80 anni prima di essere considerato un vecchio. A loro bastò meno di un decennio. L'aria umida e il fiato benefico delle automobili arrugginirono il loro bel metallo splendente. La loro fragile anima meccanica non resse al peso delle amarezze quotidiane di centinaia e centinaia di passeggeri che ogni giorno appannavano i loro finestrini. Thank you. Alcune sere sentivo di non reggere al peso della malinconia. Fu soprattutto durante quell'ultima guerra, quando venivo preso d'assalto dalle famiglie intere con la pretesa di racchiudere tutta la loro casa in quattro fagotti, da trascinarsi dietro. Città dove i palazzi avevano cominciato chissà come a bruciare, e io li aiutavo a raggiungere la relativa tranquillità della campagna. Vedevo in tutti i vecchi bambini un unico grande sguardo disperato. Molti di loro erano feriti, o troppo deboli per affrontare un simile viaggio a piedi. Non ce l'avrebbero fatta se non ci fossi stato io. In quei momenti, mentre mi trascinavo dietro il peso di un'enorme fatica, sentivo il loro respiro tiepido infiltrarsi tra le fessure del legno e riscaldarmi l'anima. Allora cercavo di confortarli. Mi muovevo dolcemente come per cullarli e suonavo la campanella per farli contenti, i bambini. Loro mi vedevano come una speranza. Adesso quelli che vengono a vedermi a malapena possono credere che sia esistito un rudere come me. Per carità, sempre meglio il museo della linea turistica. Quella sì che si può definire un'esperienza tremenda. Doversi caricare di stranieri che passano tutto il tempo a fotografare schiacciati contro il finestrino. Gente che è lì senza uno scopo, senza una meta da raggiungere. Guardano, si divertono, sghignazzano e scattano foto. Che senso ha un viaggio così? poco lontano da me c'è un altro collega a riposo che nel pieno della notte si sveglia tormentata dagli incubi. Deve percorrere la linea turistica in eterno, senza fermarsi mai e sempre più velocemente, sempre di più, finché le ruote non si staccano e lui deraglia, stremato, e a quel punto si sveglia. Non ne poteva più di quella vita. Adesso si sta abituando anche lui al museo, è tranquillo. Non è stato facile per nessuno, tutti abbiamo fatto fatica ad accettare l'immobilità delle ruote, la fissità del paesaggio. Per fortuna amiamo molto chiacchierare tra di noi. Facciamo stridere le nostre parti metalliche per non sentirci troppo soli. All'inizio della fila ci sono i più anziani, due locomotive a vapore dell'alba dei tempi, quando ancora le rotaie non passavano dentro la città. Hanno sempre qualche nuova storia da raccontare, reale o inventata, chissà, ma la loro presenza mi aiuta a sentirmi meno vecchio. Sono i più amati dai bambini. Li prendono come una specie di giostra, salgono dappertutto e giocano a fare i ferrovieri. Loro sono molto pazienti, si illudono che quell'incontro possa ispirare qualche ragazzino, chissà qualcuno di loro da grande non diventi un costruttore di treni. A me sinceramente sembra abbastanza improbabile, anche se anch'io spesso credo alla tentazione di chiedermi se qualche volta la mia presenza abbia potuto determinare un cambiamento significativo nella vita di una persona. Yeah. purtroppo sono stata importante per qualcuno, ne sono sicuro. Sono stato importante per tutte quelle persone che fuggivano nelle campagne, per i padri che grazie a me hanno potuto accettare un buon lavoro lontano da casa, riuscendo a tornare dalla propria famiglia ogni sera. Per tutte quelle donne curve sulle borsette che non dovevano più affaticarsi per tornare a casa. Per gli innamorati che si sentivano stretti sui miei sedili, nei pomeriggi di pioggia. Per chi lavorava tutta la notte e nella nebbia del mattino mi accoglieva come un vecchio amico. Per tutti coloro, lasciatemelo dire, che sono stato importante. Quello che loro non sapranno mai è quanto sono stati importanti per me. Tutti, nessuno escluso. Io li conoscevo tutti, li ricordo tutti. Passo le mie interminabili giornate a passare in rassegna i loro volti. Certo, non ho mai saputo i loro nomi, ma che importanza ha quando un viso ti permette di leggere quello che un uomo porta scritto nell'anima? Non avevo bisogno di informazioni, io sentivo la loro gioia, la loro malinconia, percepivo ogni dolore. I'm gonna go. Ricordo un impiegato. Quando iniziai a caricarlo, era un giovane diritto e altezzoso. Usciva presto la mattina e io lo rivedevo soltanto tarda sera. Passava il tempo del tragitto leggendo carte incomprensibili che estraeva alla valigetta. Era sempre solo. Qualche volta gli capitava di incontrare un conoscente. Come va? Gli chiedeva. Tutto bene. Rispondeva. Diceva che il lavoro procedeva secondo copione. Parlava dei suoi progetti. Voleva fare questo e quest'altro, diventare quello e quell'altro. Bisognava di trasferirsi in un posto migliore. Passarono gli anni, lo vidi incurvarsi, perdere i capelli a poco, il suo viso perse la cera fresca della giovinezza e della speranza. Cominciò a leggere le carte sempre meno frequentemente, finché i pochi capelli rimasti divennero tutti bianchi e lui cominciò a addormentarsi durante i tragitti. Come va? Gli chiedevano. Va. Rispondeva. Ricordo una bella ragazza bruna e una giovane studente, che la sera rincasavano allo stesso orario. Cominciarono a guardarsi nei riflessi dei finestrini. Poi, sera dopo sera, cercavano di sedersi sempre più vicini, finché lui non si decise ad attaccare bottone con una frase ridicola e si conobbero. Una sera salirono abbracciati, circa un anno dopo salirono contendendosi un bambino. Non avete idea di quanti ne ho fatti nascere così. Yeah. ma fra gli sguardi che si perdevano nel freddo dei vetri affacciati sulla città, non ho mai ritrovato la stessa espressione malinconica e profonda dell'unico uomo che potrei veramente chiamare amico. Il suo ricordo è tanto vivo in me che lo ritrovo in tutti i miei sogni. Rivedo i suoi occhi azzurri come il cielo di maggio e eravamo una bella squadra. Quando trovavamo davanti a noi la leva del cambio, immobile come un monito accanto ai binari, lui si lanciava giù con agilità sorprendente, mi precedeva e correva ad azionarla, dondolando un po' per via della sua gamba di legno. Aveva avuto un diceva, che comunque si considerava un fortunato. Aveva perso solo una gamba quando avrebbe potuto perdere la vita, le ferrovie avrebbero potuto tranquillamente licenziarlo in tronco. Ad altri era successo, invece aveva ottenuto un incarico diverso. Quando la sera tornavamo lentamente verso il deposito, Mi parlava, sì, raccontandomi della sua vita, di sua moglie e dei suoi figli, e di quanto l'avesse addolorato la morte di uno di loro. Ogni tanto si interrompeva e diceva: ci manca solo questo, sono diventato matto, che parlo coi treni della metro. Restava in silenzio per un po', poi riprendeva a parlare. Io gli rispondevo, anche se sapevo bene che lui non poteva sentire quello che dicevo. Era bello avere qualcuno con cui chiacchierare, perché lui riusciva sempre a intuire le mie risposte. Cosa dovrei dire io a mia moglie, che si lamenta con i soldi che non bastano, eh? E stai attenta a far la spesa, cosa le devo dire? E se non ci sono, non ci sono. E... ma lo so cosa mi diresti tu. Diceva accarezzandomi. Mi diresti che se i prezzi del mercato aumentano, lei non ci può fare niente. Nemmeno io, però. E continuava a chiacchierare, a volte ridendo e a volte bestemmiando contro i politici e i parenti. Ci dicemmo addio nel momento in cui il suo affanno diventa tanto forte da udirsi, anche tra gli sbuffi della vaporiera. Una sera mi toccò piano e la sua mano tremava come se avesse un gran freddo, nonostante fosse luglio. Rise, come mai l'avevo sentito ridere prima. Il suo volto per la prima volta aveva risegnato e disse: abbiamo fatto il nostro tempo, speriamo di averlo ancora fatto bene. Si allontanò zoppicando e per l'ultima volta si voltò a salutarmi con la mano, come ci si saluta tra uomini. Non lo rividi mai più. Like, successivi collaboratori mi sono sempre trovato bene, a parte un paio di casi isolati. L'ultimo, ad esempio, mi dava sempre il buongiorno la mattina e la sera mi salutava dicendo a domani, ma niente a che vedere con quella meravigliosa esperienza d'amicizia. Mi chiedo spesso che ne è stato di lui e se mi abbia mai ricordato, così come lo ricordo io. Ma forse sono un illuso, gli uomini sono troppo orgogliosi per pensare che le cose con cui si confrontano ogni giorno hanno un'anima. Credo che quest'idea le porterebbe a perdere parte del loro potere, che credono di avere sul mondo. A volte è meglio lasciar loro un'illusione, di essere soli responsabili della guida, anche se siamo noi a mordere le rotaie, a sfondare i castelli di nebbia eretti nella notte, dai signori del buio. D'estate poi il calore insano che si diffondeva nei muri grigi mi confondeva fino a farmi sbandare, eppure quanto mi mancavano quei paesaggi, quella fatica, che cambiava il sapore dell'aria appena apparivano i primi alberi da frutto. meraviglia passare tra i platani nella stagione autunnale, quando le foglie danzavano nell'aria per godersi quell'unico splendido volo che le avrebbero portate dalla terra alla morte. Queste sono le cose a cui penso, nell'istante in cui assopito sto per addormentarmi. È stata dura doverci rinunciare, ma ormai mi dicono che il mondo è cambiato. Se anche tornassi là fuori probabilmente troverei tutto diverso, e la cosa che non farebbe che irritarmi. In fondo è già tanto poter dire di averle viste tutte queste cose. Sarò anche un rudere chiuso in un museo, ma qui arrivano le voci della fama. E io so bene che cos'è una metropolitana, quando non si può sopravvivere in un ambiente così, senza aria, senza luce, correre ogni giorno da una parte all'altra della città, senza averla nemmeno mai vista, e senza conoscere la differenza tra il giorno e la notte. Savage, symphony, static, infinity, the acidic taste of life, there is bitter after the truth hits, that's the moment past, the blast, the faster. Sarò terribilmente retrogrado, ma preferisco ammuffire nella noia mortale di questo museo che lavorare in una strana caricatura nell'inferno umano. Oltretutto, questo è considerato un posto di enorme privilegio. Bisogna essere stati molto importanti per finire qui, altrimenti il destino di un convoglio è la rottamazione. Da giovane ne avevo paura, ma ora che rappresenta il pericolo scampato, posso stare quasi quasi tranquillo. Non mi sarebbe dispiaciuto vedere cosa c'è di là. Ammesso anche esistesse un loro dio, non penso sia cosa che mi riguardi. Ma se una volta fatto a pezzi un barbone avesse usato il mio legno per accendersi un fuoco, avrei fondermi con la nebbia che tante volte ho respirato e salire su, sempre più libero, verso la profondità del cielo. Da lì forse avrei potuto vedere la città illuminata farsi sempre più piccola, fino a diventare un ricordo sbiadito destinato a perdersi nel buio dell'oblio. Ma non escludo che la morte per me sia impossibile, perché mi è impossibile dimenticare. And then it's me lined up in the pantheon, replicated neon lingo saying beyond I don't need help. Selfish, this wisdom.